Focus Economia. Con Simone Spezia. Buonasera cari ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Il numero per intervenire in diretta, come sempre, è quello di SMS, il 349-238-6666. C'è anche la pagina di Focus Economia sul sito www.radio24.it. Quali sono i temi di oggi? Di che cosa parleremo? Torneremo a parlare, già lo ha fatto in parte ieri Sebastiano Barisoni, ospitando Pietro Ichino, lavorista e senatore. Torneremo sul tema della privacy sul posto di lavoro, ossia queste norme sul Jobs Act, contenute nel Jobs Act, e che comunque dovranno passare ad un vaglio parlamentare, secondo le quali per controllare PC, tablet e telefoni messi a disposizione dall'azienda non è necessario un permesso ministeriale o un accordo sindacale, basta che sia avvertito il lavoratore. C'è chi parla, oggi ci sono già delle reazioni piuttosto dure, per esempio la CGIL che parla di grande fratello in azienda e dice reagiremo. Anche il ministero scrive, dice, la norma è in linea con i controlli della privacy, senza informare i dipendenti i dati non possono essere utilizzati. Parleremo di questo con il presidente dei giuslavoristi italiani, dell'associazione avvocati giuslavoristi, che domani e sabato a Milano fanno partire il loro convegno nazionale. Ci sono al centro proprio le novità introdotte alla riforma del mercato del lavoro. Ci occuperemo dell'enciclica del Papa, e non perché improvvisamente questa trasmissione si è trasformata in una trasmissione che si occupa di temi religiosi, ma semplicemente perché all'interno dell'enciclica, come avete già sentito anche nei nostri giornali radio, ci sono molti elementi economici, al di là della pura questione che in parte già conoscevamo sul tema della protezione del pianeta. Come avete sentito, la cosa che sta facendo titolo in queste ore sono le parole che lì sono contenute in merito alle banche. A volte si salvano le banche, c'è scritto nell'enciclica, però, come dire, si dimenticano i popoli, si salvano le banche, si colpiscono i popoli. Non è esattamente così, insomma, i titoli anche delle agenzie sono un po' forti da questo punto di vista, ci sono molte mediazioni all'interno del testo, non è un testo così secco, però c'è già chi scrive e parla di un papa anticapitalista. Affronteremo questo tema e lo faremo con un economista, perché ci sembra il caso di farlo. Si parla delle banche, si parla anche della necessità di decrescita per alcune aree del mondo in favore di altre aree del mondo, e questo sicuramente accenderà un certo dibattito, probabilmente anche tra gli stessi economisti cattolici, che hanno visioni diverse anche su come l'economia. Ci occuperemo della Grecia e non potremmo fare altrimenti, ma per una volta ci asterremo dal riferirvi esclusivamente questioni di agenda da una parte o, consentiteci l'espressione, il dichiarazionificio che si svolge intorno alla Grecia, con i creditori che dicono uno una cosa, uno un'altra, il Fondo Monetario la pensa in un modo, la BCE dice la sua, poi parla la Commissione Europea, ma non parlano tutti. Parla prima un portavoce di un commissario, poi il portavoce del presidente, filtrano anche indiscrezioni, il governo greco dice quello che avete sentito anche l'altro giorno nel Parlamento, accusando il Fondo Monetario sostanzialmente di essere un affamatore, poi però va a trattare col Fondo Monetario e la BCE, ma poi va anche in Russia a trattare con Putin. La confusione è massima anche dal punto di vista della comunicazione, non è la prima volta che ve lo diciamo, e quindi oggi ci occuperemo dell'impatto che questa nuova ondata di trattative sulla Grecia ha avuto già adesso, ben prima che possa avvenire un'eventuale soluzione o un'eventuale uscita della Grecia dall'euro. Ne parla oggi il Sole 24 Ore in edicola, vedremo di fare qualche conto, cioè quanto ci è costata già questa nuova crisi greca in termini economici anche a noi, anche sul nostro debito. Ovviamente parleremo di mercati, mercati che oggi sono positivi, ma devo dire la verità, una giornata estremamente volatile, perché a metà giornata cedevano circa un punto percentuale, adesso il FTSE MIB guadagna lo 0,9%, il FTSE All Share lo 0,78%, va un po' peggio Parigi che guadagna lo 0,16%, Francoforte un punto percentuale, Londra lo 0,14%, mercati che sono migliorati evidentemente anche sulla scorta dell'America, più 1,12% il Dow Jones, e più 0,99% lo Standard & Poor's 500. Tutto questo più avanti, intanto le notizie in breve di oggi. Parte, ha ragione anche Mariano da Vicenza che ci scrive al 349-238-6666, in parte dico, ci scrive, vi leggo il messaggio: queste norme sono un distrattore di massa, vogliamo parlare della situazione del lavoro che è ancora critica. Mariano ha perfettamente ragione, il problema sono i dati, insomma, il lavoro che ancora non c'è, che qualche segnale positivo lo dà, ma non abbastanza. Detto ciò, questa questione della privacy sta sollevando un nuovo fronte di tensione tra i sindacati e l'esecutivo. Tutto sommato vale la pena approfondirlo e capire come stanno veramente le cose. Le materie prime, l'oro sale dell'1,4% a $1,202 l'oncia. Per quanto riguarda il prezzo del petrolio, invece in risalita, il WTI, quello quotato a New York, guadagna lo 0,73%, appena sopra $60,3 al barile, mentre il Brent, quello quotato a Londra, quello del Mare del Nord, risale di mezzo punto percentuale a $63,8 al barile. La Grecia, la parte di dichiarazioni e non solo, anche di dati in realtà, perché abbiamo innanzitutto il surplus primario, ossia le entrate meno le spese al lordo degli interessi sul debito. La Grecia ha registrato un surplus primario di 1,51 miliardi di euro nel periodo tra gennaio e maggio, raddoppiato dai 700 milioni dello stesso periodo del 2014. Scende anche il deficit complessivo ad 1,4 miliardi contro gli 1,99 di un anno prima. E qua via al giro delle dichiarazioni. Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, che tautologicamente dice: se al 1° luglio non risulterà pagato, vuol dire che non è pagato. È la domanda sulla rata di fine giugno, sulla rata del prestito di fine giugno che la Grecia deve pagare. La domanda è, mi scusi Lagarde, ma la Grecia farà default se non paga questa rata? E giustamente il direttore del Fondo Monetario Internazionale dice: se uno non paga un debito è abbastanza chiaro, quindi se al 1° luglio non risulterà pagato vuol dire che non è pagato. Come si diceva, gli effetti di quello che sta avvenendo, le incertezze sulla Grecia e anche quelle geopolitiche, dice la Banca Centrale Europea nel bollettino mensile, continuano a frenare la ripresa, fanno risalire gli spread d'Italia e Spagna di 40 punti e di 60 punti base quello del Portogallo. In linea

Dice Giovanni Pitruzzella, c'è un clima nuovo che favorisce l'iniziativa economica. L'apertura alla concorrenza promossa dall'autorità si colloca nell'ambito di un cambiamento del quadro giuridico che finalmente sta creando un ambiente favorevole all'iniziativa economica privata e che rimuove alcune delle cause di quel deficit di competitività di cui parliamo prima. In questa prospettiva vanno almeno citate la riforma del mercato del lavoro e il Jobs Act, la legge delega per la riforma della pubblica amministrazione, la nuova disciplina della giustizia civile, l'imminente delega fiscale, l'ormai prossima riforma del codice degli appalti e il progetto sulla banda ultralarga. Un'ulteriore spinta all'apertura dei mercati e all'aumento della competitività potrà venire dall'approvazione parlamentare del disegno di legge annuale sulla concorrenza, che il Governo ha presentato recentemente al Parlamento e che recepisce gran parte delle indicazioni fornite dall'autorità con una segnalazione del luglio del 2014. Le resistenze delle lobby saranno fortissime per difendere l'orrendia di posizione, ma siamo certi che il Parlamento saprà opporvi una ragionevole resistenza. Ancora Pitruzzella che dice la corruzione è una tassa occulta e per combatterla, al di là delle norme repressive, serve concorrenza, certezza del diritto, sburocratizzazione. I principali antidoti per combattere il diffondersi della corruzione, vera e propria tassa occulta per il sistema economico, sono una concorrenza effettiva e, come più volte rilevato dall'autorità, la certezza del diritto e la sburocratizzazione, in modo tale da ridurre i margini di discrezionalità degli interventi dei poteri pubblici nella sfera economica. Dal 2014 ad oggi l'antitrust ha accertato e sanzionato 5 intese aventi ad oggetto la partecipazione a gare di appalto e attualmente è in corso un procedimento teso a verificare la possibile esistenza di un coordinamento volto alla spartizione dei lotti nell'ambito della gara Consip con base d'asta di circa 1,63 miliardi di euro per l'affidamento dei servizi di pulizia negli istituti scolastici e nei centri di formazione della pubblica amministrazione. A proposito di lobby, Enzo cita, scrivendo sempre al 349-238-6666, oltre alla lobby dei politici, dice la lobby dei giornalisti. Ma guardi, qua, almeno personalmente, la dico personalmente, non ho nessun timore di fronte ad un'eventuale riforma, anzi, si facesse questa benedetta riforma. Ancora Pitruzzella dice... Nei settori dell'energia elettrica, del gas e idrico, l'antitrust ha intensificato l'attenzione per eliminare la situazione che definisce di patologica dipendenza del consumatore dall'impresa. Ci sono ancora troppi ostacoli alla concorrenza nei servizi pubblici locali. Si creano privilegi e rendite di posizione in favore di un numero limitato di operatori, spesso di natura pubblica, e le aziende private che operano in questo settore, tra l'altro, aggiungiamo noi, lo sanno benissimo e ne soffrono parecchio. Dice Pitruzzella, su questo fronte la concorrenza resta l'opzione preferibile. Poi qualche numero: dall'inizio del 2014 ad oggi l'antitrust ha erogato sanzioni per 266 milioni di euro. Dice siamo pronti a fare tagli di spesa per l'autorità, ma noi non graviamo sulle casse dello Stato. Nel 2014 186 milioni di sanzioni sono confluite nelle finanze pubbliche. L'Authority in sé ha ridotto del 72% le spese sulle auto di servizio, del 28% le utenze telefoniche, il lavoro straordinario del 55%, scusate, le spese per le banche dati. Così il presidente dell'antitrust Pitruzzella. Noi veniamo al primo tema di questa giornata sul quale ci state scrivendo in tanti, e state di nuovo scrivendo in tanti, ed è ancora una volta il Jobs Act e le norme sulla privacy. riforma del mercato del lavoro, toccheremo subito ancora una volta, in parte l'abbiamo già fatto ieri, lo ha già fatto ieri Sebastiano Barisoni, il tema della privacy in azienda. Ne parliamo con Aldo Bottini, che è presidente dell'associazione Avvocati Giuslavoristi. Avvocato, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Domani è sabato, tra l'altro, a Milano, il convegno nazionale degli avvocati giuslavoristi. Al centro del convegno, evidentemente, non solamente questo, ma anche questo, è un po' tutte le novità della riforma del mercato del lavoro. Però la vorrei portare subito su questo, perché poi, ripeto, molti ascoltatori ci stanno scrivendo, molti, come puoi immaginare, con molti dubbi. Emanuele che ci dice: l'azienda può mettere sotto controllo un'auto concessa come benefit e quindi anche per la vita privata. Insomma, è chiaro che da questo punto di vista le interpretazioni sono parecchie. Altri dicono: se a un disoccupato gli chiedi se ha qualche problema ad essere controllato sul PC o sul cellulare, ti risponde: non mi interessa niente, basta che tu mi dia il lavoro. Ma insomma, al di là di questo e di queste valutazioni, mi sembra che ci sia un po' di confusione, avvocato, su questa vicenda, no? Ci aiuti, sì, un po' a far chiarezza, a capire bene come funziona? Funziona così, che tutta questa norma non nasce dal nulla, è la riscrittura di una norma che c'era già, che era stata introdotta nel 1970, sì, e inserita nello Statuto dei Lavoratori. Sì. Una norma che diceva tutte le forme di controllo a distanza sono vietate se, sì, mirate unicamente al controllo dell'attività lavorativa. Se invece sono rese necessarie da situazioni di insicurezza, da esigenze organizzative, possono essere applicate solo con un accordo sindacale o con una provvedimento autorizzativo. Benissimo. Benissimo. Allora, fin questa qui eravamo nel 70, ma nel esatto, 70. Esatto, e questo di questo la fermo, perché in parte questo l'abbiamo già raccontato, insomma, ieri con il professor Pietro Ichino e il senatore che è stato ospite qua. No, questa è una norma del 70 che evidentemente andava modificata, perché semplicemente la tecnologia è cambiata, evidentemente. Questa norma adesso viene cambiata, o almeno c'è un'ipotesi di cambiarla, perché poi tutto questo, da quel che ho capito, avvocato, deve passare un vaglio parlamentare o no? Deve passare un parere parlamentare, nel senso che c'è una legge delega che incaricava il governo di intervenire su questo, come su altri temi su cui il governo è intervenuto con i decreti attuativi del Jobs Act. Quindi c'è una prima approvazione da parte del governo, poi un passaggio alle commissioni parlamentari che esprimono un parere che però non è vincolante. C'è una seconda lettura, sì, del governo che approva definitivamente la norma. Benissimo. E poi entra in vigore. Benissimo. Ma veramente con questa norma il datore di lavoro può controllare ogni passo del suo dipendente nel momento nel quale gli fornisce uno strumento tecnologico che appunto è fornito dallo stesso datore di lavoro? Cioè, la faccio molto semplice: il datore di lavoro può sapere quanto tempo passo su Facebook e farne un motivo di sanzione disciplinare o addirittura di licenziamento? Allora, quello che dice questa norma nuova è che gli strumenti che il lavoratore utilizza per lavorare non rientrano fra quegli strumenti che richiedono l'accordo sindacale o l'autorizzazione amministrativa. Questo per rimediare al fatto che effettivamente tutte le volte che bisognava installare una rete di computer bisognava fare un accordo sindacale o chiedere un'autorizzazione. Questo però non significa affatto che vengono meno le norme e le tutele previste dalla legge sulla privacy, che rimangono, che sono assolutamente in vigore, che prevedono i principi di pertinenza, i principi di proporzionalità del controllo, quindi tutto, diciamo, l'apparato di tutela previsto dalla legge sulla privacy rimane comunque in vigore. Quello che si dice è semplicemente che poi si potrà essere d'accordo o non d'accordo, di questo discuteremo domani nel nostro, sì, convegno. Abbiamo un workshop specifico su questo, ovviamente immagino anche che perché lo chiariamo lo chiariamo agli ascoltatori: voi rappresentate come associazione di avvocati giuslavoristi tanto quelli che lavorano per le aziende quanto quelli che lavorano per i dipendenti, quindi insomma, diciamo, con l'affronterete con un certo equilibrio, immagino, insomma. io mi aspetto domani un dibattito ricco e completo su questi temi, perché ovviamente ciascuno farà valere le questioni alle quali più sensibile sì. in relazione alla sua attività professionale. Quindi mi aspetto sì. che ci siano anche posizioni critiche, posizioni però ecco, dovendo illustrare il contenuto della norma, va detto che non c'è una cancellazione di quello che prevede la legge sulla privacy. Allora, io la fermo un attimo perché noi ci prendiamo una pausa, una breve pausa per la pubblicità. Vorrei ritrovarmi subito dopo con lei per parlare più in generale di queste delle norme introdotte con la riforma del mercato del lavoro e fare un attimo un punto, insomma, che sensazione ha, che polso ha anche dai suoi colleghi. A tra poco. Quando caldo e sudore ti spossano, su con Sustenium Magnesio e Potassio e Menarini. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Focus Economia. Sì, non vi ho dato conto di un po' di dichiarazioni che indicano qual è il livello dello scontro su questa norma. Per la leader della CGIL Susanna Camusso, la norma è spionaggio contro i lavoratori e Grande Fratello. Sono preoccupato, siamo di fronte a un'idea della vita delle persone sconvolgente che impedisce al lavoratore di essere libero. Il segretario della UIL, Barbagallo, è l'ennesimo strumento di un neoliberismo dalla faccia buona ma non meno sfrenato di quello antico, come se il neoliberismo fosse una parolaccia. Il ministero dice che la norma prevede controlli in linea con la privacy, senza informare i dipendenti i dati non sono utilizzabili. Molti ci stanno scrivendo: chi ha paura di queste norme ha la coda di paglia e basta, dice Antonio da Salerno. Paolo dice che userà il computer e il telefono di sua proprietà per lavorare, purtroppo ho la macchina aziendale ma vedrò di togliere il GPS. Altri come Giovanni ci dicono: quando lavoro per la mia azienda, avendo il mio tempo e le mie capacità, l'azienda stessa che per questo mi paga, quindi secondo me è giusto che l'azienda, nelle sue ore che mi paga, possa sapere dove e come spende i suoi soldi. Altri, quindi, a cosa serve se non serve questa norma a controllare i lavoratori? Non prendeteci in giro con false pretese di tranquillizzare i lavoratori, ma non stiamo prendendo in giro nessuno, né nessuna pretesa di tranquillizzare, poi da cosa, chissà. Bene, avremmo dovuto recuperare l'avvocato Aldo Bottini, presidente dell'associazione Avvocati Gius Lavoristi, ma è caduta la linea e al momento c'è svanito nel nulla, proviamo a recuperarlo più avanti, intanto andiamo sui mercati. Mercati che chiudono positivi, più 1,06% il FTSE MIB, più 0,89% il FTSE All Share. Sulla scorta, Ceo Condina, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Sulla scorta di Wall Street sostanzialmente, perché a metà giornata eravamo tutti in rosso. Sì, sembrava un'altra seduta difficile, poi Wall Street è aperto in modo molto importante, adesso guadagna oltre l'1%, perché Wall Street è aperto così, sicuramente dei dati diciamo macroeconomici oltre le attese, oltre l'oceano, ma sicuramente la posizione espressa dalla Federal Reserve che a fronte dei rallentamenti dell'economia americana e dei timori legati alla congiuntura europea ha annunciato che procederà al rialzo dei tassi con grande calma. Andiamo sui singoli titoli e inizierei dal peggiore di tutti, Saipem, un 5% di calo oggi. Un altro crollo per Saipem, qui ci sono state delle ulteriori indiscrezioni di stampa sul fatto che la posizione finanziaria netta del gruppo sia peggiorata, diciamo da fine marzo sia passata da 5,2 miliardi ovviamente di rosso a 6,5 miliardi, una situazione dunque che si aggraverebbe e che renderebbe ancora più difficile, potenzialmente ancora più diluitivo il probabile aumento di capitale che dovrebbe affrontare la società. Oggi la società ovviamente ha precisato che il debito va visto diciamo nella semestrale che verrà approvata a fine luglio, che nessun aumento di capitale è stato approvato né è stato esaminato dal CDA, però gli operatori lo scontano ampiamente. A proposito di aumenti di capitale, abbiamo Monte dei Paschi che c'è del 2,1%. Sì, un altro calo per il Monte dei Paschi. Qui c'è anche l'incognita diciamo dell'addio di Alessandro Profumo. Comunque oggi le banche sono andate quasi tutte bene, certo con qualche eccezione, invece il Monte dei Paschi ha perso un altro 2,2%. Negativo anche ST Microelectronics, oggi che cede un 1,11%, mezzo punto percentuale per Tenaris, giù dello 0,28% Mediolanum. In cima al listino oggi Telecom Italia, più 4,05%. Sicuramente il caso del giorno, oggi sulle 24 ore è anticipato il fatto che la francese Vivendi potrebbe molto presto procedere a un sostanziale raddoppio nella quota in Telecom Italia. Oggi hanno l'8,3%, potrebbero arrivare fino al 15%, e poi l'intenzione di Vivendi, che come sappiamo ha come azionista di riferimento e come presidente Vincent Bolloré, sarebbe quella diciamo di efficientare Telecom Italia, di vendere la controllata brasiliana e soprattutto di pensare a un matrimonio con una big del settore TLC. Sono proprio queste prospettive ad aver alimentato gli acquisti sul titolo. Abbiamo un altro paio di titoli di cui parlare, anzi tre, due del lusso e poi Fiat, ma lo facciamo dopo il traffico. Focus Economia. Come si diceva, ancora un paio di titoli, Jux che guadagna l'1,78%, Ferragamo il 2,14%, poi Fiat. Io so, Ceo Condina di Radio Cuore del Sole 24 Ore, che sei perfettamente in grado di dirmi cosa è successo a questi tre titoli in un minuto. Anche meno. Jux, Salvatore Ferragamo, oggi è stata una giornata sicuramente buona per la moda. Jux è un po' di tempo che va bene anche grazie ai dati annuali di Net-a-Porter con ricavi cresciuti del 28%, a breve ricordiamo che Jux si fonderà con Net-a-Porter. Anche Moncler bene per il settore della moda, più 1,7%, invece poi dovevamo parlare di Fiat, ai minimi da un mese, era arrivata a perdere il 2% stamattina, poi la borsa ha recuperato e si è riportata sulla parità. Qui i timori sono per una non tenuta, in un indebolimento del mercato brasiliano, e poi ricordiamo che Fiat era cresciuta molto e quindi adesso sta subendo un po' di realizzi ed è scesa appunto ai minimi da un mese. Meno di un minuto, perfetto, grazie Ceo Condi, la Radio Cuore del Sole 24 Ore. Buonasera, noi cambiamo argomento e parliamo dell'enciclica. Ne parliamo, come già diciamo in apertura, perché molto si è detto nelle settimane che hanno preceduto questa enciclica di Papa Francesco, molto si è parlato dei temi ambientali che avrebbero attraversato l'enciclica stessa. Forse non ci si aspettavano certe cose che vi troviamo contenute in un'enciclica, tra l'altro, rivolta a tutti gli uomini di buona volontà, quindi non solamente ai cattolici. Ed è un'enciclica nella quale ci sono molti spunti economici. Ci si scaglia oppure o comunque si critica il meccanismo consumistico compulsivo, si parla del cambiamento di uno stile di vita. Si dice, si legge, nessuno vuole tornare all'epoca delle caverne, però è indispensabile rallentare la marcia per guardare la realtà in un altro modo. Si parla della necessità che alcune aree del mondo vadano in decrescita per favorire altre aree del mondo. Si dice che il salvataggio ad ogni costo delle banche è stato fatto pagare alla popolazione. E già qualcuno dice... è l'enciclica, ed è il Papa quindi, anticapitalista. Salvatore Bragantini, economista, ex commissario Consob, consulente di Borsa Italiana per le PMI, piccole e medie imprese, editorialista sui temi di finanza e sistema bancario per il Corriere della Sera. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, che cosa dice lei? È un'invettiva anticapitalista questa enciclica? Ma mi sembra anzitutto un'invettiva anti, diciamo, sfruttamento indiscriminato delle risorse, perché quando parla di modelli di consumo, diciamo così, che sono rovinosi, lo fa perché è ovvio che se tutto il mondo dovesse consumare sugli standard, non dico americani, ma europei, diciamo, la terra sarebbe ben presto diciamo, privata di tutte le sue risorse fondamentali. Quindi c'è un appuntamento delle risorse con la questione del clima, della qualità dell'aria, eccetera, che noi ci troveremo prima o poi di fronte, perché qui naturalmente i cinesi, o diciamo quelli che arrivano adesso, vogliono consumare come noi, e noi stiamo dicendo voi no, perché abbiamo già consumato noi prima. Quindi qui c'è un problema gigantesco che riguarda, secondo me, prima di tutto l'acqua, che sarà il grande tema dei contrasti politici futuri. Poi c'è un aspetto più limitato, se vogliamo, che è quello che riguarda la critica di alcuni aspetti del sistema capitalistico. Ora, diciamo, di questo è evidente esempio diciamo, la critica ai salvataggi bancari, che ha la sua ragione. Peraltro, se non si fossero fatti quei salvataggi bancari, che cosa sarebbe successo? Secondo me sono state scelte pessime ma necessarie, un po' come la democrazia, che è un sistema pessimo fatto eccezione per tutti gli altri. Nel senso che che cosa sarebbe successo se il sistema bancario americano prima, inglese poi e via via dell'Europa fosse stato lasciato andare a remengo? Avremmo, professore, probabilmente ottenuto la decrescita, ma non quella volontaria, per così dire. Sì, ma poi più che decrescita, secondo me l'enciclica del Papa invita a diciamo una limitazione del consumo delle risorse, che si può fare anche senza decrescita, a mio avviso, perché soprattutto per quello che riguarda il consumo di energia si possono ridurre in maniera anche sensibile con degli investimenti che non implicano affatto decrescita, ma un diverso modello di consumo. Tra l'altro si scrive, ed è proprio il ragionamento che faceva lei, si legge nell'enciclica: se non abbiamo ristrettezze di vedute possiamo scoprire che la diversificazione di una produzione più innovativa e con minore impatto ambientale può essere molto redditizia. Si tratta di aprire la strada a opportunità differenti che non implicano di fermare la creatività umana e il suo sogno di progresso, ma piuttosto di incanalare tale energia in un mondo nuovo. All'ascoltatore che ci dice, che chiede cosa c'entra in ciclica con Focus Economia, signori, c'entra esattamente per questi motivi. Come avete sentito, i temi economici sono al centro, anche perché è un'enciclica che si occupa, come dire, anche del consumo del nostro mondo, per così dire, e quindi tocca evidentemente anche questi temi. Le cose sono un po' più sfumate poi da come escono sui titoli di agenzia. Voglio tornarne a parlare brevemente, gli ruberò un altro paio di minuti a Salvatore, con Salvatore Bragantini, ma lo facciamo dopo il GR. Scegliete il libro, mettete tra una pagina e l'altra le scene del film. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. E sottolineate i passaggi chiave con le canzoni della colonna sonora. Just for one day. Tutto questo è Audiogrammi. Ogni domenica alle 20:15 vi raccontiamo una storia tratta da un libro e trasportata dal cinema alla radio. Audiogrammi. Domenica alle 20:15 su Radio 24. Anche in podcast su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Con la rete Interplanet il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. State ascoltando un programma offerto da Bomi, si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Focus Economia. nuovo buonasera, di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms. Voglio rassicurare l'ascoltatore che fa notare una piccola mancanza, cioè nemmeno piccola, abbastanza grande in realtà, che non abbiamo ancora dato gli altri titoli, lo faremo tra un attimo, perché tra un attimo torneremo sui mercati e soprattutto sull'effetto che ha avuto finora la nuova crisi greca sull'Italia. E no, non parleremo di Fabrizio Corona, parliamo dell'enciclica perché ha dei temi economici al centro, non è che ci occupiamo di qualsiasi cosa. Lo dico ad un altro ascoltatore che ci scrive. E siamo ancora in linea con Salvatore Bragantini, economista, ex commissario Consob, editorialista su temi di finanza e sistema bancario per il Corriere della Sera. Ancora, professore, un ultimo commento che le chiedo ad un'altra frase che abbiamo colto in questo lavoro, in questa enciclica. Il principio della massimizzazione del profitto, che tende ad isolarsi da qualsiasi altra considerazione, una distorsione concettuale dell'economia. Anche su questo, insomma, mi sembra molto duro, Francesco, su questi temi qua. Ma guardi, io non sono un fan del Papa, però anche questa frase non mi sconvolge per nulla. Cioè, le imprese non hanno come fine il profitto. Le imprese, se non guadagnano, muoiono, quindi devono guadagnare, così come l'uomo deve mangiare, se no muore. Però poi produce un certo valore aggiunto, la cui distribuzione fra il capitale, che va a profitto, il lavoro e gli investimenti, se vogliamo, che è una forma di remunerazione del capitale investita direttamente in azienda, va decisa dal consiglio di amministrazione nell'interesse dell'impresa. L'interesse dell'impresa, anch'io sono convinto che non sia la massimizzazione del profitto, perché se per massimizzare il profitto devo ammazzare i miei clienti, sto facendo qualcosa che è sbagliato. Quindi questa frase non mi scandalizza per nulla. L'impresa deve guadagnare per vivere, ma non è che il suo scopo sia comunque guadagnare il massimo possibile, anche perché per fare questo probabilmente uccide l'impresa di domani. La ringrazio, grazie a Salvatore Bragantini per essere stato con noi, e vi suggerisco, vi ripeto, non abbiamo parlato a caso, non abbiamo parlato perché una fetta consistente del mondo considera il Papa un'autorità morale, insomma una fetta discretamente consistente, e quindi abbiamo ritenuto opportuno nel momento nel quale andava a toccare dei temi economici noi ne parlassimo. Vi suggerisco, andate sui siti internet ma anche su quello del Vaticano e scaricarvi il documento, sono 200 pagine, nemmeno troppo lungo e anche piuttosto semplice per come è scritto, così vi potete fare un'idea anche voi. Noi adesso ritorniamo a parlare di lavoro. Ritornato in linea con noi perché l'avevamo perso dopo l'inizio della trasmissione, Aldo Bottini, presidente dell'associazione avvocati Jus Lavoristi, col quale nella prima parte della trasmissione siamo tornati sul tema delle norme che regolano la privacy, per così dire, sul posto di lavoro, o il controllo, per meglio dire, del datore di lavoro, del lavoratore, quando a quest'ultimo siano forniti dei mezzi tecnologici per lavorare, appunto, come per esempio un tablet, un telefono e così via. Come sapete, sta sollevando molte polemiche e molte dichiarazioni dai sindacati particolarmente negativi e molte precisazioni anche dal ministero. Vedremo tra l'altro che fine farà questa norma e poi come effettivamente sarà realizzata. Bottini, di nuovo buonasera. Buonasera a voi. Vorrei capire un attimo come vi state relazionando, e scusate la brutta parola, voi, con questa riforma del mercato del lavoro, che è una cosa che immagino dal vostro punto di vista, che, come si diceva, lavorate tanto con le aziende, ci sono suoi colleghi che lavorano con le aziende, altri suoi colleghi che lavorano invece con i lavoratori, insomma cambia completamente il modo di lavorare, cambia in maniera drastica, mi sembra di capire. Ma guardi, appunto, i giudizi ovviamente all'interno dell'associazione sono diversi e in qualche modo seguono la diversità dei nostri rispettivi schieramenti professionali, chiamiamoli così. Ma tutti quanti concordiamo su un punto. Questa è una riforma che non è esagerato definire epocale. Paragonabile soltanto per ampiezza dell'intervento a quello che è successo negli anni 70 con l'introduzione dello Statuto dei lavoratori e con il processo del lavoro. Questi sono 8 decreti, alcuni dei quali già definitivi, altri no, alcuni in vigore, altri no, ma diciamo che sono 8 decreti che riscrivono tutte le regole del diritto del lavoro. Di questo siamo tutti quanti consapevoli e quindi siamo, come dire, molto partecipi nel processo di riflessione, di discussione, di approfondimento. Noi siamo quelli che queste norme dovranno applicare nei tribunali, nella consulenza a imprese o a sindacati e lavoratori, quindi saremo in prima linea nell'applicazione di queste norme. Certo. Quindi la prima cosa che noi vogliamo fare, lo faremo domani nel nostro convegno nazionale, che non poteva cadere in un momento più favorevole da questo punto di vista, la prima cosa che faremo è cercare bene di capire, di approfondire, di riflettere sulla portata e sul contenuto di queste norme e anche di discutere, sì, di confrontarci fra opinioni diverse. Ultima cosa che le voglio chiedere, voi avete intenzione di partecipare evidentemente da un punto di vista di osservazione privilegiato al monitoraggio di questa riforma. Esatto, noi abbiamo chiesto al Ministro del Lavoro in una conversazione che abbiamo avuto ieri al Ministero e che sarà trasmessa domani durante il convegno, non potendo il Ministro essere presente personalmente. Noi abbiamo chiesto al Ministro di farci partecipare al sistema di monitoraggio. Questa legge prevede un sistema di monitoraggio finalizzato a eventuali correzioni e integrazioni nei prossimi mesi. C'è una commissione che è già stata installata e noi abbiamo chiesto, ci siamo candidati a farne parte, ma proprio per questo, perché noi siamo in una posizione privilegiata, sia perché assistiamo sia imprese che lavoratori, sia perché siamo distribuiti su tutto il territorio nazionale, saremo un po' i terminali per capire cosa succederà. E sarete evidentemente una fonte di dati fondamentale, chiaramente. Noi crediamo di sì, soprattutto fonte di dati, sì, fondamentale per noi, per il nostro lavoro, per la qualità del nostro lavoro e poi anche per le istituzioni che vorranno ascoltarci. Noi tra l'altro stiamo lanciando in questi giorni il nostro nuovo sito, che avrà degli strumenti anche tecnologici di raccolta delle informazioni. Bene, la ringrazio. Grazie a Aldo Bottini, presidente dell'Associazione Avvocati Gius Lavoristi. E poi magari nei prossimi mesi torneremo a sentirci e magari saprà anche già darci qualche dato sull'applicazione della riforma dal punto di vista loro, degli avvocati Gius Lavoristi. Ci fermiamo, c'è il traffico, ci troviamo subito dopo. Ero in debito della lettura degli altri titoli di borsa e poi continuiamo a parlare di mercati, soprattutto degli effetti che ha avuto finora la vicenda greca. Tra poco. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta Focus Economia. Allora, i mercati chiudono, come già si diceva prima, con un rialzo, più 1,06% per il FTSE MIB e più 0,89% per il FTSE All Share. Non vi avevamo dato gli altri titoli, avevamo accennato a Telecom Italia che ha guadagnato il 4,05%, Ferragamo il 2,14%, Atlantia il 2,09%, bene oggi anche Enel più 2,04%, Prismian l'1,8%, Jux che guadagna l'1,7%, così come la Popolare di Milano a 2A, Intesa San Paolo e Moncler. L'1,4% lo guadagnano Autogrill e Buzzi Unicem, l'1,2% UbiBank ed Exor, poco più di un punto percentuale di guadagno per Unipolsai, CNH, Azimut, Finmeccanica e Unicredit. Poco sotto il punto percentuale di guadagno nel Green Power, Terna, Tots che guadagna lo 0,8 così come Generali, Eni lo 0,6. Mezzo punto percentuale di guadagno per Banco Popolare e Campari, così come per Mediobanca e Snam. Poco sopra la parità Luxottica, Mediaset, Ansaldo, Pirelli, Fiat Chrysler, World Duty Free e Popolare Emilia Romagna. Appena sotto la parità Mediolanum, meno 0,28. Tenaris giù di mezzo punto percentuale, Settimo Electronics dell'1,11, come si diceva, Monte dei Paschi il 2,19, Saipem il 5%. Restiamo in parte sui mercati per ragionare un po', non tanto come si diceva in apertura della ridda di dichiarazioni sulla Grecia, che anche oggi si affastellano con Moscovici che dice una cosa, Schäuble che ne dice un'altra, Merkel che ne dice un'altra ancora, il Fondo Monetario che dice la sua, l'Unione Europea che concorda, altre indiscrezioni che filtrano dalla stessa Commissione Europea e che arrivano al giornale greco e Catimerini. Una somma di dichiarazioni che va avanti da giorni e da settimane e che ha avuto evidentemente un effetto. Isabella Bufacchi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Che scrive oggi un pezzo, un commento sul Sole 24 Ore, che titolo, il titolo di apertura del Sole 24 Ore è: la crisi di Atene costa alle borse 600 miliardi. E tu scrivi, Isabella, il prezzo altissimo che abbiamo già pagato, che di fatto mi sembra di capire è l'annullamento del quantitative easing, ossia del piano di acquisto di titoli varato dalla Banca Centrale Europea. Beh sì, in realtà le nostre aspettative sull'effetto di questa misura della Banca Centrale Europea, che è una misura straordinaria, noi viviamo in tempi senza precedenti e le banche centrali abbassano i tassi, sono delle politiche convenzionali, beh, l'acquisto da parte di una banca centrale di un enorme quantitativo di titoli di Stato come quelli che annunciato Mario Draghi, cioè 1.140 miliardi in 19 mesi, beh, questa è un'operazione veramente forte e quindi la nostra aspettativa, che poi si era realizzata quando il quantitative easing è iniziato il 9 marzo, la nostra aspettativa è che tutti questi acquisti avrebbero fatto salire i prezzi dei titoli di Stato e scendere i rendimenti. Perché devono scendere i rendimenti dei titoli di Stato? Beh, per renderli un po' anche meno appetibili per gli investitori. La banca centrale dice, beh, utilizzate la vostra liquidità, i vostri soldi, non per investire in titoli di Stato, metteteli da qualche altra parte, nell'economia. E quindi è una mossa molto forte per abbassare il costo del denaro, anche sulla parte lunga dei rendimenti, e al tempo stesso spingere gli investimenti verso l'economia. Quindi grandi aspettative. Certo, con questa crisi appunto della Grecia, tu descrivevi, ecco, tutta quella somma di dichiarazioni giornaliere filtra poi sui mercati attraverso i monitor dei traders, anche loro alla fine vanno in tilt, tutta la gran confusione che magari hanno gli ascoltatori, cioè hanno anche gli operatori sui mercati finanziari, e quindi questo si è riflesso appunto in una recente, anche nelle ultime settimane, anche negli ultimi giorni, un recente aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. E quindi sì, effettivamente siamo un po' delusi, perché volevamo in Italia almeno per un po' sia lo Stato che le famiglie che le imprese, insomma, il grande sogno era quello di finanziarsi quasi al tasso zero dei titoli. Ecco Isabella, tu nel tuo pezzo, nel tuo commento noti una cosa interessante e per certi versi, consentimi, anche preoccupante. Cioè, tu dici alla fine questa mossa della Banca Centrale Europea, pensata appunto per tempi eccezionali e momenti eccezionali, non è comunque riuscita ad annullare la percezione del rischio paese e del rischio di un eventuale contagio. Beh, ahimè, nello statuto di una banca centrale e poi nello statuto in particolare della Banca Centrale Europea, che anche lei è un po' diversa rispetto alle altre, ci sono dei mandati molto mirati. Nel nostro caso, nel caso della BCE, il loro obiettivo è quello dell'inflazione, poco sotto il 2%. Quindi anche il quantitative easing della BCE è stato orientato verso un target, un obiettivo di rialzare l'inflazione, che ricordiamolo nel 2015, anche se sta risalendo, è attesa allo 0,3%. Altre banche centrali, quando fanno il quantitative easing, dicono: beh, oltre all'inflazione abbiamo anche l'obiettivo della crescita, l'occupazione. E infatti un po' nell'inflazione c'è dentro, direi, anche occupazione e crescita, perché i prezzi dei beni salgono, vuol dire ci sono i consumatori spendono, vuol dire che la gente ha fiducia nel futuro, c'è occupazione e non disoccupazione. Certo, la banca centrale con il QE non può risolvere i problemi politici, certo, invece dell'Europa, che è quello, che, questo... è quello che poi ripete Draghi continuamente, quindi non è che stiamo dicendo niente, sì, di... infatti, no? Cioè, e tra l'altro Draghi proprio nel suo ultimo discorso alla, a una commissione del Parlamento europeo ha fatto ben capire che la banca centrale europea non ha dei ruoli politici e che non deve giocare un ruolo politico, cioè deve fare in modo che non ci sia la frammentazione del credito. Cioè, in un mondo ideale, negli Stati Uniti d'Europa, una famiglia italiana, una impresa, piccola anche impresa italiana, una banca italiana si finanzia allo stesso identico costo di raccolta di una famiglia tedesca o di un'impresa tedesca. Quindi non siamo ancora lì. Certo, il QE non poteva proprio azzerare questo, però io sto pensando, ma se noi non avessimo avuto questo, di nuovo questo caso greco così forte, insomma, chiaramente c'è un rischio di default. Io personalmente non penso che andrà nel default, però diciamo che non si sa come andrà a finire la storia. Questa cosa qui esplode proprio a 2 mesi dall'inizio del QE, quindi il quantitative easing della BCE non aveva chiaramente l'obiettivo di ridurre il rischio contagio, ma certo è esploso proprio come dire, nel momento sbagliato. Ti ringrazio, grazie ad Isabella Bufacchi del Sole 24 Ore per questo commento e questa analisi. Noi, prima di andare a chiudere, vi facciamo sentire un passaggio di un'intervista che ha realizzato il nostro Sergio Nava con Cecilia Malmström, il commissario europeo al commercio, sul tema del TTIP, qualcuno lo chiama TTIP, il trattato commerciale con gli Stati Uniti per creare un'area di libero scambio. Passi avanti entro la fine dell'anno, ma sarà necessario anche il 2016, dice il commissario Malmström, perché insomma evidentemente i tempi sono più lunghi di quanto non si attendesse, e poi vuole rassicurare: non andrà a modificare le regole e gli standard europei esistenti. Sentiamo la voce. Well, we still face a lot of obstacles when it comes to trade. There are high tariffs. Ci sono ancora molti ostacoli da superare quando parliamo di commercio, ad esempio i tassi di esportazione molto elevati del vino italiano, del formaggio, di vestiti e scarpe. Non abbiamo ancora accesso al pubblico mercato e restano difficoltà a livello burocratico, soprattutto se parliamo di dogane. Abbiamo bisogno di più tempo per risolvere questioni come gli appalti pubblici e le indicazioni geografiche dei prodotti alimentari, sperando che il trattato possa essere portato a termine durante l'amministrazione Obama e che molto sia fatto entro la fine dell'anno. Finora è stato svolto un ottimo lavoro a livello tecnico, ma dopo l'estate comincerà il vero e difficile dibattito politico. Forse per fine anno avremo almeno uno scheletro dell'accordo, ma ci sarà bisogno anche di gran parte del 2016 per concluderlo. A big part of 2016 as well to conclude this. Every country that trades with Europe. Tutti gli stati che hanno rapporti commerciali con l'Europa ora e nel futuro devono rispettare le leggi europee. Non c'è nulla che possa cambiare le condizioni di lavoro in Europa, così come gli standard esistenti a protezione del cibo e dell'ambiente. Questa è la legge europea e noi non stiamo negoziando nulla che possa andare a modificarla. Credo ci siano stati molti fraintendimenti. Noi abbiamo commerciato con gli Stati Uniti per oltre 300 anni e milioni di persone in Europa lavorano grazie agli investimenti americani. Stiamo solo cercando di facilitare queste relazioni commerciali, ma ad oggi tutte le compagnie che investono in Europa, americane, così come cinesi, giapponesi o canadesi, qualsiasi compagnia deve seguire le regole esistenti. Posso capire che ci sia una paura diffusa a tal proposito, ma vorrei rassicurare che nulla cambierà. I can understand that there are fears here, but I can calm those fears and saying that this is not going to happen. prima di chiudere vi do conto della dichiarazione del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, ancora sul tema della privacy, i controlli, il Jobs Act. Dice che la coscienza pulita non deve temere nessun tipo di controllo, non deve aver paura di controlli a distanza. Quindi, come vedete, il dibattito prosegue. Grazie a Pietro La Corte in regia, a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno in assistenza in redazione, a tutti voi per l'ascolto. Mi scusa a Giuseppe Cruciani per il ritardo. Noi ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24. La passione si sente.